versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 18 marzo sono le 16.31 primi 39 secondi, avete sicuramente sentito lo speciale di Radio 24 dedicato ai tragici fatti nella Tunisia dell'attacco dell'ISIS al museo di Bardo. E io qua vi butto solo una domanda, perché anche se parleremo d'altro e parleremo di un tema segnalatoci da un nostro ascoltatore che vi racconterà la sua storia, l'ennesima storia di un'Italia dove le cose sono un po' paradossali, non funzionano e si può finire per rimetterci impresa e lavoro per le cose che non funzionano. In questo caso parleremo di un problematico rapporto con una banca che affibbia un prodotto finanziario che il cliente non vuole e il cliente finanziario ci rimette, la banca no. Ma al di là di questo vi faccio una domanda, perché mi sembra giusto anche aprire i telefoni per quello che succede, appunto, e per vi chiedo solo questo sulla vicenda tunisina. Nel mentre stiamo aspettando la conferma delle due vittime anche italiane, tra i 17, a quanto pare sulle 19 vittime turisti uccisi da questo comando dell'ISIS. La mia domanda è molto semplice, io vi chiedo solo se a vostra opinione l'Italia fa abbastanza contro l'ISIS. Io ricordo a tutti che nel dispositivo internazionale in corso, schierato di diversi paesi, non solo di paesi arabi e musulmani come la Giordania e alcuni Emirati, naturalmente americano, francese e così via, che dal Golfo Arabico per via aerea interviene in Siria e in Iraq contro l'ISIS, il nostro apporto è di un paio di velivoli Tornado esclusivamente a fini di ricognizione. Ecco, vi chiedo se secondo voi stiamo facendo abbastanza noi contro l'ISIS, visto che mi sembra che la risposta ufficiale italiana sia quella del solito sport di guardare e criticare. Certo, bisogna ragionare, non ci si imbarca in risposte emotive e non adeguate a quello che davvero è il nostro paese, ma è anche vero che limitarsi a guardare e a criticare gli altri forse non è la cosa più giusta. Quindi se volete telefonare anche su questo, liberissimi, 800240024, e il numero invece per gli sms è 349 238 6666, come sapete. E invece andiamo alla vicenda che nasce dalla segnalazione di un ascoltatore. Come sempre basta scrivere a versione di Oscar @radio24.it, e il più delle trasmissioni, come sapete, sono dedicate a dare voce ai vostri guai in questa Italia di cui proprio questa mattina l'OCSE ha ricorretto al rialzo le stime di crescita nel 2015, però le ha corrette a un rialzo che in totale nel 2015 più 0,6%. Voi capite bene che con più 0,6% ne abbiamo 20 anni di fronte prima di riprendere quello che abbiamo perso rispetto al 2007, quasi 10 punti di PIL, però insomma auguriamoci che invece la ripresa sia più forte. Ma al di là di questo, quello che continua a succedere nel nostro paese è troppe volte storie come quella che ci viene è stata segnalata dal nostro ascoltatore, che qui ha i microfoni oggi pomeriggio per raccontarcela. Si tratta di un imprenditore, il suo nome è Eric Banti e io lo ringrazio di averci scritto e di aver accettato di parlarne in pubblico. Buon pomeriggio e grazie Eric. Salve dottor Giannino. Giannino e basta, come è noto. Allora, raccontiamo un secondo la storia. È una storia che nasce un po' di anni fa, oramai nasce nel 2004. Esatto. Lei ha la sua impresa, di che impresa si trattava, cosa faceva? Io sono tuttora vignaiolo, diciamolo così. Sì. E quindi insomma questi sono giorni col Vinitaly eccetera eccetera importanti per la categoria. So che viene anche lei. Sì, martedì, siccome Radio 24 ha una sua forte presenza in occasione del Vinitaly, martedì nel tardo pomeriggio poi ne parleremo con i nostri ascoltatori e farò anche un dibattito proprio per capire qual è il punto di questo importantissimo settore della nostra filiera agroalimentare, importantissimo anche perché ha grandi successi all'estero. Allora, lei fa il vignolo nel 2004 e che cosa succede? Dunque, nel 2004 sono stato contattato da una banca, quello il rapporto, perché mi volevano offrire un contratto ISO swap, a suo tempo si diceva così, oggi derivati, sì. Per dirmi che i tassi erano al minimo e farmi capire che potevo attrarre molto vantaggio sulle esposizioni bancarie. Faccio una premessa che nel 2004 ero, il mio rating era tripla B con 3 più, per cui nessun problema di accesso al credito, ok? Sì, quindi aveva, diciamo così, le carte in regola per avere un merito di credito positivo e avere buoni rapporti bancari e poter chiedere, eccetera. Assolutamente, io ho affrontato il rischio e ho detto non lo sottoscrivo questo contratto. Quindi lei ha detto alla banca: no, la vostra proposta io non la accolgo, non mi convince. Assolutamente, anche perché mi sembra un terno all'otto, non ne vedo la necessità, anche perché l'azienda andava a gonfie vele. Pensavo che in questa riunione con tutti i capi di questa banca fosse lì finita la faccenda, però nel 2005 vedo che negli estratti conto che mi arrivavano trimestralmente a un certo punto venivano fatti degli addebiti dagli 8 ai 10 mila euro su operazioni che non capivo, per cui sono andato subito al direttore dicendo: ma che cosa sono questi addebiti così pesanti? E lui dice: no, è il contratto IRT. Il contratto qui, benissimo. Allora chiamo il mio avvocato, che è munito del 700, sa che è un procedimento di urgenza. Ma lei aveva messo per iscritto, cioè la banca le aveva fatto una proposta formale alla quale lei aveva risposto in maniera altrettanto formale quando l'aveva? Assolutamente no, c'erano no. Solamente i direttori e tutta una cosa verbale. E poi dopo andremo, poi le racconto, le lo dico. Il mio avvocato fa causa alla banca e il giudice del 2006 emette una sentenza, la leggo perché voglio sbagliare, la sentenza che accoglie il nostro ricorso e per l'effetto dispone la sospensione di tutti gli addebiti o ogni eventuale richiesta di rimborso e o rientro da parte della stessa banca, comunque riferibili ad operazioni IRS fino alla definizione del giudizio in merito. Questa è la sentenza, ok? Sì. Nelle fasi dibattimentali del processo. E questa sentenza arriva rispetto a questa vicenda che era iniziata nel 2004, temporalmente quando è situata la sentenza? Il 22 gennaio 2006. Nei dibattimenti il giudice, io non ero presente, i legali della banca presentano il contratto sottoscritto con firma falsa e con nostro timbro della società. A quel momento, cioè, la banca ha prodotto un documento falsificandolo, secondo il quale lei aveva sottoscritto quel contratto. Sì, assolutamente sì. Ho tutte le perizie, per cui sono costate 1800 euro solamente. E questo io non sapevo di questa cosa, per cui non sapendo, non sapevo come potersi muovere. Nel 2007, la sentenza è del 2006, nel 2007 la banca mi mette a sofferenza su centrale rischi. Lei sa che cosa vuol dire sofferenza? Per cui le altre banche con cui ero impegnato, avevo ottimi rapporti, mi chiedono i rientri, non immediati perché capivano che non potevano essere fatti, però di farli nel più breve tempo possibile. Che cosa ho fatto? Ho ceduto un ramo d'azienda per poter reperire liquidità e ho tolto all'azienda la liquidità che poteva disporre per far fronte a questi impegni. Dopodiché, per un vizio di forma, è un po' complicato poterlo spiegare, il tribunale non accetta una richiesta da parte del mio legale, per cui siamo dovuti ricorrere al tribunale d'appello di Firenze, che ci ha dato ragione nel 2013, per cui abbiamo potuto depositare l'atto per la causa per querela di falso alla banca stessa solamente nel giugno 2014. Il tribunale si ha convocato per una prima udienza il 16 gennaio, ma il giudice, essendo onorario, ha rimandato i fascicoli al presidente del tribunale per una nuova riassegnazione a un giudice togato. Lei sa la differenza sicuramente. Il giudice togato mi ha dato la prima udienza il 6 maggio 2016. 2016. Ora, 2016 significa 12 anni dal momento nel quale la vicenda è partita e 10 anni dopo la sentenza favorevole, una sentenza favorevole alla quale la banca che ha prodotto atti falsificati in base ai quali lei aveva sottoscritto quel contratto non ha mai ottemperato a quella sentenza, no. La banca, no. E per conseguenza della quale, segnalato dalla banca alla centrale rischi, lei ha avuto il rientro di tutte le banche, nel frattempo ha dovuto cedere un pezzo dell'azienda e nel frattempo lei aspetta ancora fino all'anno prossimo che ci sia l'inizio di questo procedimento, quello per falso nei confronti della banca. Io non ho nessun problema a dire, lei è stato per così dire riservato nel citare la banca, si tratta della BNL. No, non è la BNL. Banca Popolare di Novara. Banca BNL è stata un'altra cosa che mi ha chiesto rientro immediato. L'ha chiesto rientro immediato, allora mi sbaglio io, perché avevo cercato a conferma proprio di quello che ci aveva scritto sui ritagli di giornale, avevo trovato citato la BNL e la ringrazio perché avrei fatto un errore io. Quindi lei è finito in causa anche con altre banche che le avevano chiesto il rientro? Mi avevano chiesto il rientro immediato in 8 giorni con telegramma, sempre col 700 fornito dall'avvocato. C'è stata un'altra assistenza a nostro favore che intimava la banca a riconcedersi tutti i fidi pre-telegramma. Allora, la domanda che le faccio è: ma è possibile mai che di fronte a un atto falsificato, lei aveva, come capita a tutti i piccoli imprenditori che nel nostro paese lavorano in regime di pluriaffidamento, no? Noi non siamo in Germania, per chi ci ascolta, in cui di solito le piccole imprese hanno una house bank, una banca di riferimento che tradizionalmente accompagna le piccole imprese, ne conosce nei meandri tutti i particolari. Cioè in Germania funziona che il vero professionista a cui si dice tutto della piccola impresa non è commercialista come da noi, il dottore contabile commercialista, ma è di solito la banca. Noi abbiamo una storia di evoluzione del rapporto tra sistema bancario e piccole imprese completamente diversa, per cui si lavora in pluriaffidamento. Ma nel pluriaffidamento significa comunque che il piccolo imprenditore, quindi lei in questo caso, ha dei rapporti personali con il direttore d'agenzia della filiale eccetera eccetera, perché nel tempo alla fine ci si finisce per conoscerci un po' meglio, per conoscersi abbastanza bene, per così dire. Allora, è possibile mai che fin dall'inizio di questa vicenda, prima di arrivare alla produzione da parte della banca di un atto falsificato nel quale lei aveva accettato un prodotto che invece aveva respinto, in maniera personale, nei rapporti con chi rappresentava questa banca, lei non abbia trovato nessuna rispondenza, nessun atteggiamento di comprensione, di dire no? No, assolutamente no, perché quando sono andato alla sede centrale a Roma, via Tomacelli, avevo tutto lo staff riunito, sempre accompagnato dal mio legale, e ho trovato un muro di gomma. A questo punto l'avvocato ha fatto subito il 700, per cui abbiamo poi avuto la sentenza a nostro favore. Oramai con Basilea 2, Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, sì, sono gli accordi sui coefficienti di capitale. Oramai i rapporti tra il cliente e il, chiamiamolo bancario, non il banchiere, sono nulli, perché il direttore di banca non è altro che l'usciere della banca, non ha poteri decisionali, non ha nessun tipo di potere come poteva essere. Diciamo che deve applicare delle procedure standard in base ai rating per chi ha il merito di credito e garanzia, ancora come era lei prima, o altrimenti sui rientri automatici, perché bisogna tutelare i coefficienti di capitale della banca, che è quello che è capitato, per cui appunto gli hanno chiesto tutti il rientro concordato dopo la segnalazione immediato, dopo la segnalazione in centrale rischi. Ma la cosa pazzesca è che viviamo in tutti questi anni di crisi ancora con banche che non ottemperano a sentenze, uno. Due, e come vedete, un sistema di dilatazione dei tempi, quindi di incertezza sui propri diritti da far valere nel sistema giudiziario, per cui uno è costretto a vendere pezzi di un'impresa per essere stato truffato dalla propria banca, perché comunque deve ottemperare a degli obblighi. Allora, questa vicenda che abbiamo raccontato per sommi capi è una vicenda, secondo me, non eccezionale, ma purtroppo molto diffusa, perché io ricevo purtroppo molte lettere di questo tipo. Questa è proprio conclamata, perché c'è un falso da parte della banca, però sono passati 10 anni di inottemperanza di quella banca nei confronti di una sentenza contro di lei. La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo tornati in diretta 16:48, primi 36 secondi. Non c'è ancora la conferma ufficiale degli italiani uccisi nell'attacco al museo di Bardo a Tunisi. Il ministro degli interni tunisino ha confermato che ci sono 19 turisti morti, anche italiani, quindi bisognerà aspettare ancora un po'. Sapete però, l'avete ascoltato nel nostro speciale, che c'era una comitiva di turisti italiani, tra cui 30 che venivano da Torino, un nucleo di dipendenti dell'amministrazione comunale, esattamente in visita a quel museo, quando questo comando, che aveva tentato di fare irruzione al Parlamento tunisino, respinto dalle guardie di sicurezza, ha poi deviato, pare, il proprio obiettivo verso i turisti nel limitrofo museo dei Musaici a Tunisi. E, abbiamo sentito la storia che ci ha raccontato Eric Bant, imprenditore nel settore vinicolo, una storia abbastanza incredibile, ma non così rara, di una banca che gli fa sottoscrivere con un falso un prodotto che lui ha respinto, viene addebita ai costi, lui riprotesta e a quel punto si tutela giudiziariamente, si arriva a una sentenza che gli dà ragione, la banca non ottempera, lui finisce segnalato in centrale rischi, deve rientrare, deve vendere un pezzo dell'azienda. Sono passati 10 anni da quella sentenza e lui è ancora in attesa di giustizia nel frattempo. Però tutto il danno e la ridefinizione del perimetro del reddito, del patrimonio della sua azienda, sarei naturalmente dovuto beccare, perché altrimenti lui non ripristinava la possibilità di avere rapporti bancari ordinari. Questo succede nell'Italia di crisi. Nel frattempo iniziamo a sentire le vostre telefonate. Cominciamo con Achille dalla provincia di Varese. Achille, prego. Sì, buongiorno a tutti quanti, sì, voi. Allora, io premetto che sono un piccolo imprenditore, viaggio moltissimo e ho diversi amici in Iraq, in Libia, eccetera, eccetera, e che quindi queste nazioni sono quelle che più soffrono. Ah, certo. Quotidianamente. Io l'ho visto sulla mia pelle che diversi amici sono saltati in aria senza avere nessun colpo se non quella di cercare di far sviluppare il loro paese. Detto questo, ovviamente la risposta è no, l'Italia e tutta l'Europa non fa a sufficienza, e c'è una sorta di ipocrisia che noi privati però non abbiamo, perché sappiamo perfettamente chi sono i paesi che sovvinzionano questo gruppo, che ricordo che in arabo si chiama Daesh o ISIS. Il primo è il Qatar, che vuole darsi una parvenza di... cioè vuole avere un certo ruolo politico nella regione che non ha mai avuto. Certo. Quindi il Qatar, tutti quanti noi sanno che è uno dei fondatori di questo. Il Qatar poi è lo stesso che nel centro di Milano, a quartiere Porta Nuova, è appena subentrato nella proprietà rilevando le quote di Manfredi Catelli del fondo Heinz, e che poi investe anche cifre molto considerevoli in Italia, che ha questa strategia, come lei dice, doppio fronte, cioè un fronte presentabile nella finanza internazionale e poi per interessi geopolitici, per affermare il proprio ruolo nell'ambito dell'equilibrio di potenze dei paesi sunniti, sciiti, l'Iran da una parte, Arabia Saudita dall'altra, invece finanzia direttamente anche l'ISIS. Sì, e in realtà poi il mondo arabo è diviso, ci sono conflitti, certo, all'interno loro, perché in realtà anche gli Emirati Arabi ed altri paesi sono avversari del Qatar, perché, esatto, non li riconoscono. Infatti gli Emirati Arabi insieme all'Egitto intervengono anche in Libia contro l'ISIS e intervengono insieme alla Giordania anche sui cieli siriani e iracheni. Ok, credo... E poi l'altro aspetto è che in realtà uno dei nostri paesi, dei nostri grandi amici, che è la Turchia, in realtà ne giova di tutto questo e non fa che mettere benzina sul fuoco, perché, ecco, come sì, sappiamo, per d'accordo, motivi politici comprano il petrolio a un prezzo che è ridicolo, e tengono le porte aperte perché vogliono che sia la Siria soprattutto tengono gli occhi chiusi di fronte alla vera permeabilità della loro frontiera, da dove arrivano i volontari, anche gli adolescenti che partono dall'Europa per raggiungere l'ISIS, no, passano dalla Turchia. Infatti è voluto questo, certo. Perché è chiaro che loro non vogliono avere, siccome l'unica potenza regionale che è rimasta nella zona a parte Israele, loro non vogliono che l'Iran, esattamente, che è sempre stato una potenza, abbia un ruolo, così come non vogliono l'Iran sciita contro l'ISIS sunnita. Quindi secondo lei l'Italia dovrebbe fare di più anche nel dispositivo militare? Ovviamente sì, ecco. E dovremmo assumerci e non essere ipocriti, sempre ipocrisia. Quella di criticare gli altri senza fare niente. Allora, ho espresso un'opinione chiara a Achille, sentiamo Cristina da Bergamo. Cristina, prego. Salve, io non so se ho capito bene il discorso, cioè, però obiettivamente che l'Italia stia facendo poco non mi sembra. Proprio l'Italia è il paese che si tira indietro, che sta lì a guardare. Vi ricordo solo i morti di Nassiriya. Ah, per carità, onoriamoli, ha ragione a dirlo. Naturalmente era una vicenda diversa rispetto all'ISIS. Ecco, sì, ma comunque, cioè, no, tanto per dire che l'Italia non è che stia mai a guardare. No, no, anzi, ha mandato la gente in Afghanistan, in Iraq, per carità di Dio. No, questo... Ecco, poi volevo dire, probabilmente in una situazione economica come quella di oggi, ci stiamo occupando già di tantissimi immigrati, che trattiamo molto meglio di tanti italiani. Faccio memoria al signor Fausto, disabile in carrozzella, che vive in auto, che probabilmente dobbiamo anche scegliere dove inviare, dove mettere i soldi che non abbiamo neanche, perché alla fine... Chiarissimo, no, ma io queste due telefonate danno l'idea di come l'opinione sia diversa anche tra gli italiani. Io capisco entrambi, secondo me i due aerei di cognizione è un po' un'ipocrisia. Allora, sentiamo qualche opinione di chi ci ha mandato mail sulla vicenda di Eric Banti. Domenico da Udine dice: nel 2006 minacciato il direttore che lo denunciavo, quello della banca, per avermi rifilato derivati per 800.000 euro. L'indomani alle 8.45 ha chiuso tutti i conti, costringendomi a fare concordato e a chiudere l'azienda. Domenico, io ti posso solo dire che se ci mandi... Andy, abbiamo il tuo numero di cellulare, ma questa è un'altra storia che va raccontata. Ci sono tanti, come immaginavo, tantissimi sms che sono arrivate. Io ringrazio Eric Banti, ma ci torneremo oggi. Naturalmente la cronaca ci ha obbligato a tenere le orecchie e gli occhi aperti su questa tragica vicenda tunisi. Continuate a sentire Radio 24, appuntamento con me a domani.